Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, se siete stati in quest'ultimo periodo o contate di andare a Parigi, certamente passerete davanti a un palazzo importante, anche perché ha sede in uno dei quartieri più eleganti della capitale francese. Si chiama Palazzo Galliffet, anzi l'Hôtel de Galliffet, come si intitola il libro di cui adesso parleremo, ed è un palazzo importante perché ha avuto un ruolo molto significativo nella storia di Francia, è stata sede di una istituzione importante della Francia. E attualmente è la sede dell'ambasciata italiana a Parigi, considerata forse la più bella ambasciata straniera a Parigi. L'autrice del libro si chiama Marina Valensise, che devolverà tra l'altro all'Istituto i proventi dei diritti d'autore di questo libro. Il libro è pubblicato da Schirai dall'Istituto, 192 pagine, 35 euro, è ricco di illustrazioni, adatto anche ai francesi che vogliono conoscere meglio la storia della loro capitale, visto che ha anche il testo in francese. Protagonista indiscusso del libro è una delle figure più leggendarie discusse della storia francese, ossia il principe di Talleyrand, che lì ebbe casa e ufficio, essendo stato ministro degli esteri tra il 1797 e il 1807. Il palazzo era stato costruito dal marchese di Galliffet, poi la rivoluzione gliel'aveva espropriato, destinandolo appunto a sede del ministero degli esteri, quindi era tornato ai proprietari finché nel 1909 il governo italiano non l'acquistò per farne appunto la sede dell'ambasciata, che è considerata forse la più bella di quelle presenti a Parigi. Un palazzo dunque strettamente collegato alla storia di Francia e ad alcuni dei personaggi più in vista tra il 7 e l'800. Ma sentiamo da Marina Valensise che cosa ha scoperto del palazzo. Buonasera a Marina Valensise. Buonasera direttore. Marina Valensise, cominciamo dal fondatore di questo famoso Hôtel de Galliffet. Al povero marchese non gli portò bene questo nuovo palazzo. Beh, dipende dai punti di vista, perché ebbe una carriera sensazionale che iniziò proprio in queste stanze nel 1797 come ministro degli esteri del direttorio e poi del consolato e poi dell'impero. Rimase qui in questo palazzo dove ha sede l'Istituto di Cultura e al primo piano le delegazioni diplomatiche presso gli organismi internazionali, al terzo piano la distanza, rimase qui fino al 1807. Agosto 1807, quando si dimise da ministro degli esteri, ma continuò a far parte dell'élite della gerarchia più alta dell'impero fino alla caduta dell'impero. Ecco, qui in questo palazzo lei ci descrive nelle prime righe il fascino che esercita questo palazzo, anche proprio su di lei, che confessa di sentire quasi la presenza fisica del grande inquilino di questo palazzo, che fu il principe di Talleyrand. È vero, io sono qui da 3 anni e devo dirvi che soprattutto i primi tempi, adesso mi sono un po' abituata, ma ai primi tempi si sentiva proprio l'emozione, si sentiva aleggiare questa presenza importante che ha caratterizzato la storia non solo francese, ma tutta la storia diplomatica europea. E quando io penso che le maniglie, le porte, le finestre, le facciate che noi vediamo sono le stesse che vedeva Talleyrand, c'è una certa inquietudine mista emozione. È la ragione per la quale ho voluto cercare di raccontare tutto ciò che queste mura avevano visto, e mi sono cimentato in una biografia del luogo che, come sapete, è stata pubblicata in collaborazione con l'editore Schirat in edizione bilingue, illustrata con bellissime foto di Guy Boucher e una serie di riproduzioni di quadri dell'epoca. Ecco, a proposito di Talleyrand, lei scrive di sentire quasi il principe che rimprovera i nostri tempi, li definisce ineleganti e meschini. Non si sarebbe trovato? Credo che si sarebbe trovato, perché era un uomo molto abile e molto facile ad adattarsi, però poi era un genio. Però io volevo sottolineare la differenza di contesto, la differenza di ambizioni, la differenza di ruoli che nel corso di due secoli ha caratterizzato la politica e il potere. Da una parte si parla lì, naturalmente, da una parte c'è un aristocratico, rotto a tutto, che è stato agente generale del clero di Francia, che è dovuto emigrare durante il terrore, conosce benissimo gli Stati Uniti perché è stato in America e poi ha fatto l'agente immobiliare, ha fatto fortuna comprando e vendendo immobili e terreni. E quest'uomo è un uomo pronto a tutto, pur di servire la sua ambizione, pur di servire la sua idea di potere e la sua strategia politica. Dall'altra parte ci siamo noi, che siamo in confronto dei lillipuziani, perché viviamo in un regime democratico, siamo tenuti, come giusto che sia, a dare conto delle nostre singole azioni, del nostro operato, e dobbiamo operare in questa situazione, dico, di meschinità, di mediocrità, di assenza di grandi ambizioni, di assenza di passioni, di controllo con il mito della trasparenza integrale. E quindi io volevo sottolineare, attraverso questa biografia, attraverso questo racconto dell'Hotel de Galicée, non solo la distanza che ci separa, ma anche l'assoluta eccezionalità delle figure storiche e delle vicende storiche che hanno avuto luogo tra queste mura. A proposito di queste vicende storiche, uno dei momenti culminanti, anzi uno dei primi momenti di lustro che Talleyrand diede al palazzo, fu il pranzo, la colazione che organizzò per Josephine, la moglie di Napoleone, incontro con il quale il futuro principe Talleyrand cercò di cominciare a ingraziarsi la futura imperatrice. Sì, Talleyrand aveva capito che l'uomo forte del regime del direttorio, che ricordo era un regime con un esecutivo molto litigioso, perché c'erano 5 capi del governo che litigavano tra loro, aveva capito subito che l'uomo forte era il generale Corso di 27 anni, che in pochi mesi aveva conquistato il nord dell'Italia, e capì subito che per far breccia sul cuore di questo personaggio, che era un uomo molto schivo, tenebroso, poco abituato alle douceur della vita dell'Ancien Régime, era uno che avanzava con passo militare, poche parole, molto laconico, sempre con questi occhi tristi, grigi, questo sguardo vitreo. Bene, l'unico modo per far briciare sul cuore era quello di agire attraverso la donna che lo aveva incantato, lo aveva sedotto, in pochissimo tempo era diventata sua moglie, cioè Joséphine de Beauharnais, la quale era una figura un po' a cavallo tra i due mondi, così come lo era Talleyrand, perché anche lei faceva parte di una famiglia aristocratica, anche lei aveva avuto dei problemi durante il terrore, era stata addirittura in carcere durante il Grande Terrore, liberata pochi giorni dopo Termidoro, e soprattutto era la vedova di un aristocratico che aveva servito gli ideali rivoluzionari ed era stato anche lui vittima dell'estremismo giacobino. Quindi con Joséphine lui poteva in un certo senso dialogare, perché si trovavano a condividere la stessa esperienza, erano due sopravvissuti all'Ancien Régime che cercavano di venire a patti col nuovo regime. Con Bonaparte Talleyrand metterà in atto una strategia di grande seduzione, perché facilitata anche dal fatto che entrambi avevano bisogno l'uno dell'altro. Talleyrand aveva bisogno di Bonaparte per consolidare il suo ruolo di ministro in questa compagine governativa rissosa, in preda alle gelosie, in preda al massimalismo. Bonaparte aveva bisogno di quest'uomo abile, grande conoscitore delle finanze del regno, grande conoscitore di tutto l'establishment che ancora contava, per consolidare il suo potere personale e ambire quindi a un ruolo politico, non solo militare. Erano così diversi da essere fatti per intendersi, e da lì nacque un rapporto molto importante fra il futuro imperatore e il futuro principe. Sì, erano così diversi che si attraevano, e appena insediato Talleyrand scrive una lettera, quasi una lettera d'amore al generale Bonaparte, il quale lo omaggia appena torna a Parigi nel dicembre del 1797, lo omaggia subito con una visita storica che avviene qui in questo palazzo agli inizi di dicembre del 1797. A questa visita assistono anche Madame de Staël, che all'epoca è ancora leggeria del direttorio, è la donna che pensa che la Repubblica si può stabilizzare con un colpo di Stato come quello di Fruttidoro, non è ancora la, la critica dell'impero e soprattutto non è ancora l'egeria del liberalismo antibonapartista, e quindi inizia questo balletto intorno a Bonaparte dove tutto succede con il tentativo di seduzione sia da parte di Talleyrand, che riesce in pieno, sia da parte di Madame de Staël, che invece riesce solo in parte, solo a metà, perché si scontra contro l'intrinseca misoginia e il sospetto che Bonaparte da buon corso aveva nei confronti di tutte le donne intelligenti e indipendenti. Poi il rapporto comincia a scricchiolare nel 1807, però lei scrive che fra i due il rapporto rimase sempre, come dire, sotterraneo, si cercavano, si capivano di avere bisogno l'uno dell'altro. Lei scrive: Napoleone sapeva di non poter fare a meno di quel tessitore di mille raggiri nell'ombra di cui doveva servirsi o fingere di servirsi. È vero, questo non lo dico solo io, ma lo dicono soprattutto gli storici che hanno studiato sia la biografia di Talleyrand come Manuel de Varesquiel, sia la biografia di Bonaparte come Patrick Guénifé, che ha scritto un primo tomo bellissimo e sta per pubblicare il secondo. I due erano diversi, ma erano assolutamente lucidi, entrambi diabolicamente lucidi, sui propri limiti e sui vantaggi che avrebbero tratto servendosi dell'altro. Anche questo succede anche quando i due rompono ufficialmente, e la rottura non ha niente di drammatico, perché Talleyrand si dimette nell'agosto 1807 dopo essere stato praticamente ringraziato ed essere stato esautorato dalle trattative con le potenze anti delle monarchie europee, soprattutto la Russia, e ricordiamo che all'epoca di Presburg, per esempio, da pace di Presburg, Talleyrand è l'uomo che da un lato consiglia Bonaparte, dall'altro è l'uomo che detta le risposte detta allo zar le risposte che lo zar deve dare a Bonaparte. Quindi è proprio un parossismo, una specie di consacrazione della doppiezza e dell'ambiguità. Napoleone è al corrente di tutto questo, però non rompe mai frontalmente, perché sa fino alla fine che può utilizzare, può comunque sempre contare anche a suo vantaggio sull'arte diplomatica e diabolica di Talleyrand, che è un uomo dalle mille risorse, come io racconto in questo libro, con la battuta sempre pronta, con una freddezza glaciale, sempre capace di schivare le accuse, di schivare processi, di trovare una via d'uscita anche nelle situazioni più scabrose, come per esempio la morte del duca di Enghien o il processo che cominciò a subire per la vicenda che riguarda il congresso americano. Ci fu un caso di malversazione, lui fu accusato di corruzione e se ne riuscì completamente indenne, e tant'è vero che poi ritrovò la sua poltrona di ministro. Un uomo del passato proiettato nel futuro. Se lo incontra all'Hotel de Galliffè, ce lo saluti. Grazie a Marina Valensise. Arrivederci, grazie a voi e buona lettura. E sull'attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi segnalo, sempre a cura di Marina Valensise, sempre pubblicato da Schirà, L'Italiano in Cucina, 286 pagine, 42 euro, che presenta il frutto di un lavoro avviato con Massimo Bottura, il grande chef, al quale poi hanno partecipato 20 suoi colleghi stellati, che presentano qui la propria personalità in cucina. Un personaggio che con Talleyrand si incrociò, anzi assieme a lui fu uno degli assoluti protagonisti della rivoluzione francese, fu Robespierre, un personaggio che sembra tornato di moda. Qualche settimana fa vi avevo segnalato una biografia, adesso ce n'è un'altra di uno storico australiano che tra i maggiori esperti della rivoluzione francese, Peter McPhee, si intitola appunto Robespierre, una vita rivoluzionaria, pubblicata dal Saggiatore, 358 pagine, 26 euro, ed è tradotto da Luca Fontana. Il rivoluzionario Robespierre, ricorderete, fu ghigliottinato a 36 anni nel luglio del 1794, ed è l'oggetto appunto di questo studio, che vuole scrivere del passato, scrive l'autore, come fosse il presente, piuttosto che limitarsi a leggere la storia a ritroso. Di Robespierre sappiamo in fondo poco, almeno dei suoi primi 30 anni, quelli che precedettero il suo ruolo da protagonista nella Parigi rivoluzionaria. E poi Robespierre naturalmente è stato oggetto di interpretazioni che sono sempre state ferocemente contrastanti, chi lo vede come il padre del totalitarismo e chi come l'ardente difensore dei principi della rivoluzione. E qui McPhee cerca un filo interpretativo basandosi sugli anni febbrili della rivoluzione che fecero di Robespierre il leader della Francia, un periodo al termine del quale egli, scrive l'autore, si sarebbe trovato malato, sfinito, irrazionale e disperato. E a questo punto interrompiamo per un momento e ci sentiamo fra qualche istante. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dunque, è cominciato un anno nuovo, allora come augurio vi voglio offrire qualche riflessione sul tempo, anzi ve ne propongo 5 che sono nell'ordine di Jules Renard, di Ennio Flaiano, di Roberto Gervaso, di Sant'Agostino e di Harold Taylor. Un anno è finito, si è tagliata via una fetta al tempo e il tempo resta intero. Col passare del tempo, le poche cose importanti della vita diventano pochissime. Chi ha molto tempo è colui che più ne fa perdere agli altri. So che cosa è il tempo, ma quando devo dire cosa è, non lo so più. Il tempo è più prezioso del denaro. Il denaro si può ricostituire. Il tempo perduto non si recupera più. Queste riflessioni le ho tratte da un libro che ci potrà fare anche da breviario in questo nuovo anno. È un'antologia curata da un noto giurista, Fausto Capelli, che ha curato il libro Aperto degli aforismi, pubblicato da Rubbettino, 406 pagine, 19 euro, dalla A di abito alla V di verità, tante voci con aforismi, aneddoti, proverbi, motti di spirito, versi e brani di prosa, naturalmente di tantissimi autori, ci sono perfino io che parlo di Milano. Ed è il frutto questo di un lavoro, di un vizio, di una mania, la chiama l'autore stesso, di un lavoro iniziato al liceo, quando il curatore aveva cominciato a raccogliere frasi che lo avevano colpito, e qui troviamo il frutto ordinato di questo lavoro, una raccolta di oltre 3.000 aforismi e 500 aneddoti e brani vari. E l'autore tributa un omaggio particolare a François de la Rochefoucauld, maestro dell'aforisma, con altri 3 autori francesi, Chamfort, Montaigne e Voltaire, che ispirò anche molti spunti per alcuni studiosi di economia. Cominciamo l'anno nuovo con 2 romanzi italiani di una certa mole, di cui sono autori 2 scrittori noti, che ci portano in 2 zone d'Italia molto caratterizzate e molto diverse. Il primo scrittore è Enrico Brizzi, l'autore di Jack Frusciante, che negli ultimi anni si è poi dedicato a libri sulle camminate in montagna e ai romanzi di fantastoria. L'ultimo romanzo che pubblica è Il matrimonio di mio fratello, Mondadori, 502 pagine, 22 euro. Il libro racconta la storia di 2 fratelli bolognesi, il maggiore un po' ribelle, appassionato di montagna, che diventerà anzi la sua occupazione, il secondo ambisce una vita normale, in fondo come quella dei genitori di una famiglia borghese, ha meno grilli per la testa, va a lavorare nella società nella quale lavora suo padre. L'orizzonte del secondo, che poi il narratore del romanzo, si esaurisce nel lavoro, ma giusto per guadagnare, nelle donne, in qualche trasgressione con le sostanze. Da piccoli i 2 erano molto legati, anzi il secondo, cioè Teo, era cresciuto nell'autentico culto del fratello maggiore, Max. Max e io, scrive, eravamo cresciuti nel palmo della stessa mano e per molti anni avevo nutrito per lui una quieta adorazione. Poi anche Teo acquisterà una sua autonomia, anche a prezzo di tensioni con il fratello. Un giorno il maggiore sparisce dalla sperduta abitazione del Dolomiti dove vive con la famiglia, e il viaggio notturno al quale Teo deve sobbarcarsi per per cercare di recuperarlo, di trovarne le tracce, e l'occasione per ricostruire questo rapporto e per rievocare il clima in fondo beato della loro famiglia nella quale erano cresciuti, che diventa un piccolo ma significativo frammento della storia d'Italia. E sentite questa fotografia della generazione alla quale il protagonista narrante, appunto Teo, dà voce. 17 anni dopo l'esame di maturità, lo zoo dei miei compagni di classe si era trasformato in un grumo d'umanità provata e scontenta, radunata per l'occasione nella veranda di una pizzeria. Dopo aver vissuto in compagnia la stagione priva di pause e introspezioni delle speranze e delle sorprese, ognuno di noi, una volta uscito dal liceo, aveva attraversato quella dell'arrischiamento scientifico in vista dei propri obiettivi, ma ormai la maggioranza si doveva confrontare con una dura realtà. Le promesse di gioventù erano andate in larga parte disattese. Non eravamo diventati la classe dirigente del 2000, come c'era stato promesso a ogni piè sospinto, e molti di noi non erano neppure riusciti a trovare un lavoro che li mettesse in grado di uscire dalla casa dei genitori. I soli che vi fossero riusciti, a ben vedere, erano quelli che dei genitori avevano seguito le orme o ereditato l'attività. Solo una minoranza aveva deciso di sposarsi, e ancor meno erano quanti avevano fatto il gran passo di mettere al mondo dei figli. L'altro autore è Antonio Pennacchi, legato invece all'ambiente della bonifica pontina, che ci dà il secondo volume della saga, ambientata nella prima metà del Novecento a Littoria, che oggi chiamiamo Latina. Il libro si intitola Canale Mussolini, parte seconda, Mondadori, 428 pagine, 22 euro. Questa è la prosecuzione della storia di una famiglia trasferitasi nella bonifica pontina sotto il fascismo dall'originario Veneto. L'autore non ha mai nascosto la sua grande considerazione per il fascismo sociale, di cui le realizzazioni dell'Agropontino erano state espressioni. Del resto, Pennacchi, che col primo volume di questa saga vinse il premio Strega del 2010, si definisce un fascio comunista. Qui il fascismo è caduto, la guerra finisce, siamo nei primi anni della Repubblica. La famiglia, che si era divisa con varie collocazioni durante la guerra, si riunisce e in qualche modo farà fortuna, e di nuovo emerge dal libro di Pennacchi una rappresentazione letteraria potente di quell'Italia che si realizzò grazie anche all'incontro tra le grandi culture politiche dell'epoca, rappresentate dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista, come spiegano queste righe che rievocano con nostalgia l'origine della Costituzione. Si sedettero attorno al tavolo e iniziarono a scrivere la Costituzione. Man mano che trovavano l'intesa, anche dopo liti furiose e notti di discussioni estenuanti, mettevano un segno, spuntavano e via. Passiamo avanti. Dove invece l'incontro sembrava proprio impossibile, diametralmente opposte le posizioni, comunisti e cattolici, De Gasperi e Togliatti, alla fine davano un colpo al cerchio e un altro alla botte. Ognuno dei due inghiottiva qualcosa e trovavano comunque sempre un accordo. Da qua non ci alziamo se prima non lo abbiamo trovato. È così che si è potuta costruire l'Italia democratica. È così che il paese, da arretrato e sottosviluppato che era, è potuto diventare la sesta o settima potenza economica mondiale. Ancora oggi qualcuno storce la bocca, specie i nipotini duri e puri degli azionisti o i sinistri massimalisti radical chic laico Fighetti. Togliatti, nella sua ambiguità e tatticismo esasperato, cedette in una mediazione al ribasso al clericalismo reazionario e alle forze della conservazione. Noi non lo avremmo mai fatto. Ma non avrebbero neanche mai fatto la Costituzione. Starebbero ancora lì a discutere. E non si sarebbero fatte neanche le riforme di struttura che pure si fecero. Non si sarebbe fatta la ricostruzione del paese. Quello di Togliatti si chiamava solo principio di realtà. Abbiamo parlato di social fascismo. Sul rapporto tra Mussolini e il socialismo vi segnalo il libro di due giornalisti, Alberto Mazzucca e Luciano Foglietta, Mussolini e Nenni, Amici Nemici. È pubblicato da Minerva Edizioni, 528 pagine, 16,90 euro. Mussolini e Nenni furono due personaggi legati soprattutto dall'origine geografica. Entrambi erano romagnoli ed entrambi erano stati socialisti e si erano conosciuti nel 1910 e all'inizio avevano litigato perché già allora erano su posizioni politiche differenti. nazisti, Nenni era repubblicano e Mussolini socialista, e anzi pare che alcune di queste polemiche fossero finite anche a botte, anche se Montanelli scrisse che Mussolini e Nenni si odiavano ma come fratelli, perché a dividerli era soltanto l'ideologia. E qui troviamo la storia di questo rapporto, che naturalmente avrebbe portato poi i due su posizioni del tutto divergenti, anche se alla fine sarebbe probabilmente rimasto un fondo, chissà se di reciproco rispetto, semplicemente di nostalgia per una giovinezza nella quale, come scrisse la figlia di Mussolini, Edda Ciano, li legava la Romagna, la povertà, la testa dura e la galera. Parlando di Brizzi, ho accennato ai suoi libri sulle camminate, allora vi segnalo un libro su chi cammina per lavorare. Andare, camminare, lavorare. L'Italia raccontata dai portalettere, pubblicato da Feltrinelli, e l'autore è un portalettere letterato, Angelo Ferracuti, 342 pagine, 18 euro. Questo è un tour per l'Italia, anche fotografico, con gli occhi appunto dei portalettere, abituati a raggiungere anche i punti più sperduti della penisola, ma che hanno un'ossessione particolare, le scale. Le scale, dice Ferracuti, sono le ossessioni del corpo di ogni portalettere, che deve salire ai piani, ma anche l'agguato più sorprendente, l'ignoto assoluto, aggiunge l'autore. Vedere dal piccolo spiraglio della porta la vita interna, quella degli appartamenti, gli odori di quelle stanze, di quelle persone, sono esperienze non comuni. I portalettere registrano, guardano, si accorgono, non sfugge loro niente, tutto messo da parte in un luogo segreto della memoria. E allora il viaggio, che è durato dall'11 marzo al 29 settembre dell'anno scorso e che è stato fatto soprattutto in treno, parte da Chamois in Val d'Aosta, l'unico paese senza strada carrozzabile dove si arriva in funivia, e naturalmente tocca poi tutta l'Italia fino ad arrivare in Sicilia e Sardegna. Per ogni tappa il portalettera indigeno rievoca aneddoti e curiosità, e tutti contribuiscono a costruire un ritratto dell'Italia davvero insolito. Per esempio a Milano si parla del quartiere Bicocca, e questo dà lo spunto per illustrare la trasformazione della vecchia città industriale. A Roma si parla tanto dei quartieri eleganti del centro storico quanto del quartiere Petralata. Insomma, scrive l'autore, si tratta di una sommatoria di microcosmi significativi raccontati dall'interno. E a questo punto il confettino. Il mezzo insostituibile per i portalettere era la bicicletta, e allora vi segnalo una nuova collana per ragazzi di un editore che si è specializzato nell'editoria ciclistica e di ciclo. La collana si chiama Drin. Questo libro si intitola Caterina Controvento di Alfredo Stroppa, 128 pagine, 12 euro. L'autore è un editore libraio di letteratura per ragazzi, e quello che ci propone è un romanzo storico ambientato nella Prima Guerra Mondiale, in cui una ragazza troverà nella bicicletta una speranza di libertà. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Oreggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata, ancora buon anno, e vi do appuntamento domenica prossima.